24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Ci siamo, sono le 6:35 minuti, cari ascoltatori, ma ci siamo in tutti i sensi. Ieri Matteo Renzi mi ha risposto a un tweet. Sapete Twitter, no? Ieri io ho detto è in corso la 37esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E Matteo Renzi in persona mi ha risposto, potete vederlo tutti su Twitter, già! Ma questa e la prossima saranno davvero decisive, accetto la scommessa. Oh, ci siamo, l'ha detto Matteo Renzi, l'ho messo anche sul mio blog, c'ho il blog, Peter, alessandromilan.it, se non va bene. Che sì, mi faccio un tatuaggio, ha detto Peter Bescapè. Ma che sei pazzo? È il blog alessandromilan.it. Se lo fai ti diseredo. Non so come, ma ti diseredo. Va bene, questo è 24 mattino. Saluto Miriam Lucchetti che è tornata. Nonostante un po' di febbre, ancora di strascichi, il nostro alpino è lì. Possiamo aprire il Parlamento. Il tatuaggio. Il caffè volentieri a tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della Minniti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Rossere col caffè della Minniti. Noi non lo vogliamo dalla Minniti. Brutto cretino di un Milan. Lo chiamo Parlamento. Vabbè, eccoci qua. Voglio salutare subito Lia Celi. Ecco, magari Lia Celi, se si tatua alessandromilan.it, io www anche, punto, io va bene, allora faccio. Lia Celi, buongiorno. Buongiorno, no, il tatuaggio della settimana è quello che Anna Tatangelo si è fatta fare sull'ingui nel nome di Gigi D'Alessio, mi piace, dopo tanta... Questa me la sono persa, cos'è che... Ma no, su Twitter se ne è parlato, insomma, immagina il tipo di battute che possono essere state evocate da sull'inguine. Dopo il tatuaggio di Anna, chi può più fare di meglio? No, ma infatti farà male peraltro sull'inguine. Magari chiederò a Tatangelo di tatuarsi Alessandro Milan. Punto it, sì, no, grazie, non vorrei Gigi D'Alessio alle calcagna a cercare. Basta che non canti, dai. No. Saluto Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama. Maurizio, buongiorno, ben ritrovato, eccoci qua. Buongiorno a te Alessandro e a tutti quanti. Allora, io non ho tatuato niente. No, non ti tatuo, no, ma neanche io in realtà ho tatuaggi, però so. Allora, no, allora. Però sono d'accordo con te, secondo me la perde la scommessa Renzi. La perde? Oh, ma sei impegnato così, ha detto, ma questa e la prossima saranno decisive, infatti Twitter lì è impazzito, tutti a dire... Promessa di politico, proprio. Ma ho capito, però se la perde, vabbè, che poi non abbia scommesso nulla. Un caffè. Non ha scommesso nulla, ha detto scommettiamo. Scommettiamo. Ci dicono paridami. Accetto scommesse, sì. Vabbè, comunque, come migliori parti in 40 settimane alla fine dovremmo esserci. Questo almeno secondo Renzi. Il dramma è questo, il dramma che ha suscitato stupore e scalpore nel PD. Cara Lia Celi, lo incontriamo o non lo incontriamo? No, ma guarda, lo incontriamo. Ho twittato stanotte, il problema è che qui in Italia, se vedi Renzi di notte in scooter che va sotto un palazzo che non è casa sua, non è per vedere un amante, ma è per vedere Berlusconi. Questa è una cosa molto triste. Ma perché? No, ma qual è il problema di incontrare Berlusconi? No, scusa, posso dire una cosa? Guarda, comunque questo ha solo un pregio. Io dopo un mese o due mesi che non sentivo più la frase scontro nel PD e il PD si spacca, stavo veramente male. Oggi finalmente sui giornali ritorna questa frase che fa capire che tutto è tornato alla normalità. Sì. Il PD si spacca, è una cosa che mi mancava proprio. Sì, mi mancava effettivamente, tanto tempo. Il PD si spacca, Maurizio Tortorella, effettivamente, lo incontriamo o non lo incontriamo? Cioè Renzi deve incontrare Silvio Berlusconi, qualcuno nel PD ha detto, ma come? Incontri un pregiudicato? Non è il capo del partito di Forza Italia. Sì, ma poi Renzi ha detto, ma cioè io lo incontro e voi ci avete fatto un governo, ma sono il problema sono io che lo incontro. Vabbè. Che succederà? Si dovranno incontrare, però questo dibattito, Maurizio, cioè la polemica su un incontro Renzi-Berlusconi, mamma mia. È la vecchia storia degli impresentabili o presunti tali, più presunti che tali, è un atteggiamento dal mio personale punto di vista, poi per quel che conta, totalmente sbagliato, è un atteggiamento, questo sì, razzistico fondamentalmente. Però cioè, c'è effettivamente un po'. Adesso uno può dire, però quando Berlusconi abbiamo fatto il governo non aveva subito la condanna definitiva, poi ha subito la condanna definitiva, quindi questo lo renderebbe, come dire, un interlocutore non più presentabile politicamente, magari per qualcuno all'interno del PD, o no, Maurizio? Questo è l'indotto. Tanto senza i suoi voti non vanno da nessuna parte, quindi. Questo è anche vero, visto che il Movimento 5 Stelle ha già detto per la riforma elettorale. Sì, certo, certo. Il Movimento 5 Stelle ha già detto la riforma elettorale no, e quindi chi rimane? Lì a Cieli, esatto. Rimane il grande, grande uomo nero. Guarda, come diceva Shakespeare, credo, la politica crea strani compagni di letto, anche Berlusconi, devo dire, insomma, la sua biografia, diciamo che è una cosa che non gli manca, però con tutto che anch'io vengo da una lunga militanza di schizzinosità per Berlusconi, mi piace anche che Renzi abbia questo atteggiamento un po' da tagliare il nodo gordiano, no? Noi siamo mesi, anni che fissiamo questo nodo inestricabile dei rapporti con Berlusconi e arriva Renzi e dice no, basta, lo incontro e facciamo sta riforma elettorale, insomma, come Alessandro Magno alla fine taglia il nodo gordiano, non lo scioglie ma lo taglia e si apre la strada verso il potere. Anche perché c'è una scommessa da vincere da parte di Matteo Renzi, questo infatti, caffè, infatti, quindi infatti, nel giro di due settimane a questo punto. Esatto. Vabbè, comunque di riforma elettorale, io ripeto, ho questa mia posizione molto molto personale, cioè tutte le volte che leggo, noto le pagine, guardo giusto i titoli e poi giro perché mi annoio. No, guarda Alessandro, la vera riforma elettorale italiana sarebbe cominciare a votare con la testa. Sì, vabbè, questo è un vecchio discorso, poi ognuno vota come vuole, però insomma non mi appassiona la vicenda, però vedo che appassiona i giornali, Maurizio, anche oggi, caro dottore. Siamo ancora una volta in sintonia, perché anch'io trovo che, voglio dire, io ho 54 anni, sono 30 anni che sento parlare di riforme, di modelli, non ne posso più. Non ne puoi più. Anche se ovviamente è importante. Ma sì, ma sarà importante, ma sì, ma la cosa importante, cioè gli italiani non distinguono tra il Mattarellum, lo spagnolo, il doppio turno, il proporzionale, non distinguono, no, e a non interessa agli italiani, interessa che ci sia. Un sistema esattamente, cioè comunque che il governo facesse sì, qualche cosa. Ma interessa, no? Che quando uno va a votare, se vota, se va sul partito, la coalizione che ha votato è contento e spera che faccia qualcosa, se va sugli altri spera comunque che facciano qualcosa alla fin fine, e punto, non gliene frega niente a nessuno di quale sistema di voto, interessa ai costituzionalisti, ai politici, agli editorialisti, ai commentatori, e basta. No, ma poi la stessa parola riforma in qualunque campo venga usata ormai suscita una tale rabbia che, guarda, ieri ho scritto un pezzo, dovevo scrivere la parola riforma e l'ho messa RA con gli asterischi in mezzo come le parolacce, perché già, ma la parola da sola suscita una tale irritazione e senso di presa in giro, sì, che ormai va censurata, insomma, sì, come surfiloquio. Vabbè, vi chiedo questo, visto che Maurizio tu hai tirato fuori in ballo il razzismo addirittura nei confronti di Berlusconi, è razzismo quello nei confronti di Cécile Kyenge alcune manifestazioni? Allora Maroni ieri ha detto, anzi intanto vogliamo sentire l'epica gaffa di Iole Santelli, che oggi si è difesa su Repubblica, dice ma no, ma mica ho fatto una battuta, la battuta è questa. Posso dire che devo contenere l'immigrazione, sì, e non aver nessun tipo di problema o comunque ritenere assolutamente normale che ci sia chi vive in Italia da 20 anni, è perfettamente integrato, poi magari ha la fortuna di non doversi truccare come noi, che ha la fortuna di non doversi truccare, Maurizio Tortorella. Guarda, io ho ascoltato anch'io le battute, non credevo alle mie parole, sì, non credevo alle mie orecchie, scusami. Io conosco Iole Santelli, sì, da qualche tempo, escludo che sia una razzista, ma no, ha voluto fare una battuta, tutto il suo discorso era proprio un tentativo di spiegare che si può essere di una certa parte di certe idee, ma non necessariamente, anzi assolutamente, essere non razzisti. La battuta è un po' infelice, però decontestualizzare parla. Sì. Ma no, ma è chiaro, ha detto, cioè ha fatto una battuta, proprio si vedeva anche dal tono, dalla faccia, no? Era ad Agorà, però c'è questo modo di... Ma io non lo so, vabbè. No, ma Alessandro, sì. Noi questo fa il paio con l'abbronzato di Obama, di Berlusconi. Ma sì, ma infatti. Berlusconi agli uomini di colori non invidia quello che si invidia di solito, ma il colorito, perché lui, sai, come Cerone, il trucco, cioè, lo sente veramente questo problema. Cosa invidi tu agli uomini di colore, cara Lia? Cosa invidi tu agli uomini di colore? Vorrei proprio saperlo a questo punto. Ma il ritmo nel sangue, naturalmente. È ovvio, il ritmo nel sangue. E vabbè, no, al di là della battuta, veniamo alla questione seria. È razzismo, Maurizio Tortorella, è razzismo? Quello di Latifi. Nei confronti della Chieng, cioè c'è un moto di razzismo o sono solo critiche legittime che si possono fare a chiunque? Allora, le critiche nei confronti della Chieng sono assolutamente in gran parte condivisibili. Io tra l'altro credo che stia sbagliando grandi cose. Il problema è che allora certe idee, certe campagne finiscono poi per alimentare il sospetto e purtroppo quando incomincia a fare di un giornale che si chiama La Padania, qualcosa che si chiama, che può diventare Pedinia, nel senso che inciti in qualche maniera a seguirla per poterla contestare, la contestazione è legittima, quando però diventa una persecuzione, forse no. C'è il rischio. Se non altro l'hanno identificata come il bersaglio, non ho mai visto contestazioni. È un bersaglio facile, devo dire. Non ho mai visto contestazioni. Sì, ma contestazioni leghiste al ministro Trigilia, non so, il primo che mi è venuto in mente, non le ho mai viste e non so cosa abbia fatto il ministro Trigilia, starà lavorando benissimo, non lo so, però... Diciamo che vanno a soleticare le peggiori istinti del... Sì, anche qualche istinto un po' basso. 24 mattino. Ciao Alessandro, rimpasto? Il letame è più lo rimpasti e più puzza. Do ragione a Renzi, niente rimpasto, a meno che il letame lo vogliono i maiali che sguazzano in Parlamento in questo periodo. Ciao Alessandro, scusa, ciao. Buongiorno Milan, io il forcone lo darei a quei bifolchi della Lega, perché non sono personaggi, sono proprio bifolchi. E perché non gli suggerisci, invece di fare la lista dei convegni della Chieng, perché non gli dici di fare la lista delle loro ruberie? Roma era ladrona, ma quanto hanno rubato e continuano a rubare loro? Ma che vergogna, che degrado. Matteo, da buon uomo di sinistra che sono sempre stato, voglio darti un consiglio. Questo tuo fare da superuomo, da narciso, da sborone, che parli e scrivi, guarda che molto ben presto finirai per stare sui coglioni a tutti, anche a noi di sinistra. Caricati di umiltà, scendi da quel trono in cui ci stai mettendo. Matteo Renzi, stai rompendo i coglioni come tutti prima di te. Vabbè, insomma, il giudizio Lia a volte è un po' impietoso. E la nostra segreteria così è un po' un pentolone nel quale c'è di tutto. Sto cercando di salvarmi, chissà quanto mi vogliono bene i politici. La minestra è meno piccante del solito, sì, però. Sì, effettivamente sì, però meno piccante, ma come dire, netti nei giudizi, ecco, alcuni. Allora, è razzismo, cara Lia, nei confronti di Cécile Kyenge, che tra poco sentiamo? Dire che comunque non è il primo ministro dell'immigrazione che abbiamo, però è sicuramente il primo contro cui c'è una iniziativa così, insomma, plateale. Io non posso, considerato che non è un fulmine a ciel sereno, ma è stata preceduta dalle battute sull'orango, eccetera. Sì, le banane. È un po' difficile. Non pensare che se non fosse un ministro di colore, insomma, avrebbero un altro. È questa la questione. Ci saranno le questioni politiche, ma io non ho ancora trovato, lo chiedo sempre ai leghisti quando li invito, eccetera. Qualcuno leghista, e questo è il problema, Maurizio Tortorella, che abbia il coraggio di ammettere, a dire la critichiamo perché è, ci dà fastidio che sia nera, che sia un ministro nero. Invece dico, ma no, ma la pelle non c'entra, però ci sono le banane. Ma no, ma è perché non fa niente come tanti. Ma nessuno che fa il passo ulteriore si prende la briga di dire sì, mi dà fastidio perché è stata scelta un ministro nero, con una scelta, non so, demagogica. Non hanno il coraggio di dirlo, ma secondo me molti lo pensano all'interno di quelli che la contestano. No, Maurizio, sbaglio? Ma è possibile, la Lega spesso sbaglia in questo, perché invece che andare avanti con le sue proposte e contestare nel merito, contesta più che altro in maniera appunto folcloristica o sbagliata, e ottiene l'effetto esattamente opposto, sì, a quello che è la sua... Comunque, la vogliamo sentire, ministro Kyenge? Sentite Kyenge. Se nessuno nasce razzista, vuol dire che razzista lo si diventa, ma lo si diventa anche per comportamenti che possono essere errati da parte di chi vuole far passare un messaggio di paura. Messaggio di paura. In tutto questo chi ha combinato Buonanno? Un altro che spesso chiamo della Lega. Buonanno si è dipinto di nero. Se, mamma mia, Buonanno. Poi cos'è che ha detto Buonanno? Io penso di no. Io penso che allora gli italiani, oltre ad andare nelle caserme dei carabinieri e dichiararsi rifugiati concludo politici, si devono anche fare un po' più scuri e andare in giro a dire anch'io ho bisogno, e vediamo se lo Stato italiano anche con gli italiani è così buono come fa con gli stranieri. C'è il razzismo al contrario, è un razzismo al contrario. Eccolo là, cioè si è buoni con gli stranieri, vabbè, che dobbiamo commentare. Allora, in tutto questo la copertina di Panorama che ho davanti a me è come ti schiaccio le imprese, ma come? Cioè, beh certo, perché dici il governo non fa e quindi le imprese soffrono. Perché avete fatto questa copertina, caro Maurizio? Ma guarda, perché intanto dall'analisi di due settori, il settore della birra e il settore delle sigarette elettroniche, sì, che hanno rialzato il capo, tasse, nel senso nel caso della birra, ed avevano alzato il capo per la prima volta nel caso delle sigarette elettroniche, sono state subito affossate da provvedimenti fiscali, nel caso della birra reiterati, che hanno devastato come fosse una bomba appunto due dei settori, pochi settori che funzionavano a livello di export e di consumo interno. Le tasse sulle imprese in Italia sono, tenetevi forte, al 65,8% del reddito contro il 34% della Gran Bretagna. Cioè, abbiamo analizzato quello che è il vivere comune di un imprenditore italiano e l'abbiamo confrontato con quello di altri paesi concorrenti, tra l'altro. Sì, sì. E la giungla di norme e fiscale in Italia ammazzerebbe chiunque. Sì, rischia non è un paese per imprese. E infatti questo è quello che mettete come copertina, come ti schiaccio le imprese. C'è anche Letta, in questo caso come esponente del come il governo, insomma il premier Letta in prima. Io non sai che Lia Celi non sono contento se non ho il mio Brunetta del giorno. E oggi l'abbiamo trovato. Nessuno è perfetto. Vabbè, tutti che commentano così dicono: ognuno si accontenta. E a me diverte. A me Brunetta mette di buon umore, mi rallegra. E con quelle sue polemiche è partita la polemica annuale contro Sanremo e gli stipendi. E il mio obiettivo, come dire, molto simbolico, è Sanremo. Io voglio sapere. Bene. Come sono pagate le star di Sanremo? Tutte. Beh, aspettiamo e vedremo allora. C'è anche Belpietro. Sembra. No, in realtà stava finendo il tempo, ma sembra che Belpietro. Sì, bene. Come dire, vabbè, abbiamo capito. Sanremo, sì. Ogni anno. Ma è l'altro capitolo della guerra Brunetta Fazio, naturalmente. Certo. Certo, è vero. Pensa che idiota, io non avevo visto. No, ma lui ogni anno ce l'ha con Sanremo, anche quando lo conduce Fazio. Perché a cantare così, insomma, si mette in pace, su un piedistallo e tu Maurizio poi facciamo razzista contro i esatto il piedistallo lì esatto dopo no Maurizio, dico, tu vuoi sapere gli stipendi di quelli di Sanremo, caro Maurizio? Tu no, perché poi mi viene un travaso di piedi. Esatto, poi dici dovevo fare l'artista, dovevo fare l'attore, dovevo fare Non avevo nessuna caratteristica, purtroppo. Vabbè, il cantante. Neanche. Il cantante degli U2 potevi fare. No, quello neanche.

terremoto giudiziario, quello che ha colpito la regione Liguria. Sapevamo dell'inchiesta da mesi, ma insomma ci sono stati degli sviluppi che sono stati anche abbastanza clamorosi. E che commento si può fare quando un cittadino legge tutti i giorni questo tipo di resoconti? Sicuramente da escludere che ci fossero arresti nell'inchiesta. Francamente le manette per Scialfa hanno l'ex vicepresidente della giunta Burlando, hanno un po' sorpreso anche noi, più che altro non tanto per la gravità dei fatti, perché poi i magistrati ritengono di avere in mano delle prove di fatti gravi, non ultimo quello per il quale Niccolò Scialfa ha falsificato delle firme di colleghi per tentare all'ultimo momento di giustificare queste spese in consulte che il gruppo d'Italia dei Valori faceva e che facevano, diciamo, secondo i magistrati, anche numerosissimi esponenti di altri gruppi. Quindi non era inatteso. È stato un po' una sorpresa l'arresto, non era inatteso il fatto che l'inchiesta sarebbe andata avanti, perché vede, quando Niccolò Scialfa è il secondo vicepresidente della giunta regionale che è costretto a dimettersi, quando alcuni mesi fa si è dimesso Rosario Monteleone, presidente del consiglio regionale dell'UDC, è evidente che c'è una pratica che è andata avanti per anni anche in una regione, diciamo, che dovrebbe essere che è educata in qualche modo alla politica, no? Come la Liguria, che continua ad essere attaccata a determinati valori. La politica negli ultimi decenni è diventata una cosa diversa. Sì, soprattutto nelle regioni, soprattutto mi pare di capire delle regioni, tanto che qualcuno dice sì, è lì che si annidano i veri sprechi, ci si accanisce tanto con le province, no? Il dibattito sulle province, ma è questo sistema delle regioni e dei rimborsi che ha creato i più grandi scandali in realtà. Ma guardi, anche perché per l'organizzazione istituzionale, l'architettura istituzionale che ci siamo dati, le regioni avrebbero dovuto essere in pratica, dopo le due Camere, il terzo organismo legislativo del Paese, che definiva, a seconda della specificità delle regioni, una serie di norme che favorissero lo sviluppo dell'area. Non è stato così, le regioni si sono trasformate lentamente in una specie di bancomat che distribuisce ai comuni i denari, a te sì e a te no, e questo secondo me è l'inizio del declivio, l'inizio della corruzione. E questo da una parte, dall'altra è ovvio che quando circolano cifre maggiori, cifre più alte, gli esempi di corruzione siano... Chiaro, la mia linea è che i proverbi poi sono sempre saggezza e l'occasione fa l'uomo ladro, è un proverbio sacrosanto. A proposito di questo, in Sicilia, allora io vorrei arrivare ad Antonello Cracolici, perché è chiaro, c'è l'aspetto di colore su tutti i giornali adesso, oggi la notizia è che l'onorevole Livio Marrocco, ex presidente del gruppo Futura Libertà, si è fatto rimborsare anche 179,40 euro per una collezione di fumetti Diabolik. Vabbè, c'è sempre anche del colore nelle vicende, lui dice erano allegati a un quotidiano, spiegherò tutto. Ma Cracolici, oggi mi ha colpito in realtà la notizia pubblicata dal Corriere della Sera con grande enfasi, Felice Cavallaro, che qual è stata la reazione dell'Assemblea regionale siciliana qualche giorno fa. Uno si aspetterebbe chissà cosa, sdegno, a dire no, chiediamo scusa, e invece la reazione degli ultimi giorni dell'Assemblea regionale siciliana è che è stato aumentato, dando 1.160 euro lordi l'indennità di servizio anche l'indennità di funzione anche ai capi gruppo della regione. Intanto lei è stato capogruppo nella scorsa legislatura, non c'era l'indennità di funzione allora? No, non c'era per una ragione, perché come tutte le storie vanno raccontate, diciamo, conoscendole. Fino alla scorsa legislatura i gruppi ricevevano dall'Assemblea delle risorse, il 10% di quelle risorse erano nella disponibilità dell'ufficio di presidenza dei gruppi, sì, anche per le relative indennità di funzione. Adesso, avendo abolito, diciamo, gran parte avendo ridotto di gran lunga le risorse che sono a disposizione dei gruppi. L'indennità di capogruppo, che è di prassi sempre stata equiparata a quella di presidente di commissione, sì, viene erogata direttamente. Ma viene erogata, mi faccia capire agli italiani perché un capogruppo deve avere un'indennità di funzione da 1160 euro lordi al mese in più dello stipendio degli altri parlamentari, cioè perché in quanto capogruppo deve fare un lavoro aggiuntivo che comporta questa indennità da 1160 euro? Le posso assicurare che fare il capogruppo comunque è un incarico, diciamo, al di là del prestigio che dà, è anche molto, diciamo, oneroso, è anche molto impegnativo, quindi che poi ci sia, così come il presidente di una commissione o il presidente dell'assemblea riceve un'indennità aggiuntiva per la funzione che svolge, di prassi anche il presidente dei gruppi costituisce, diciamo, una modalità. Mi sembra giusto. Guardi Cracolici, io quindi, lei essendo presidente della commissione affari costituzionali, ce l'ha, diciamo, l'indennità. Ricevo anch'io 1038 euro lorde, non so quanto lorde sono in più. Diciamo, il presidente euro dell'assemblea credo sia invece 2700 euro lorde al mese, cioè in più aggiuntive come indennità di funzione. Guardi come certo, sono, guardi certo, come ma guardi che è uguale al Senato, alla Camera. No, certo, ma certo. Voglio dire, non stiamo qui parlando di cose autonome della città. No, ma questo sì, però guardi come sono io, onorevole Cracolici. Io, per equiparare giustamente i capigruppo, non devono essere trattati diversamente dagli altri, l'avrei tolta a tutti. E invece qui l'hanno. Invece qui l'hanno messa anche ai capigruppo. Mi scusi, dottor Milan, anche ai giornalisti si potrebbe dare la stessa indennità per tutti i giornalisti, non riconoscendo ai capiredattore nessuna indennità aggiuntiva. Ah, ecco, dice. È lo stesso ruolo. Ma non è che il presidente dell'assemblea vale di più del, in quanto presidente, il caporedattore? Ma che vale? Fa un lavoro molto più impegnativo, obiettivamente. Anche delle, ecco, guardi, nel caso specifico lei oggi mi ha contattato, sì, perché io sarei tra gli indagati, sì, in quanto della, per la vicenda del, ma sa perché sono indagato? Perché ero il presidente del gruppo, cioè essendo responsabile del gruppo rispondo della, diciamo, della gestione del gruppo che parlamentare. Spese? Adesso, no, ma vedremo, adesso arriviamo alle spese contestate. Prima vorrei, visto che abbiamo un direttore, Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, che pensa, direttore, del paragone, insomma, Cracolici dice anche nella gerarchia di tutte le redazioni c'è il direttore, vice direttore, caporedattore e così via, e c'è chi guadagna di più e di meno, un po' così è capogruppo, presidente di commissione, quindi ci sono indennità aggiuntive, La Rocca. Io penso che Cracolici sostanzialmente abbia ragione sul fatto che chi ha ruoli più importanti deve guadagnare di più. Cracolici però dovrebbe dire qual è la base di partenza dello stipendio. E poi, come per i giornalisti, ci sono giornalisti bravi, ci sono redattori capi bravi, ci sono direttori bravi, io sono il primo a sapere che guadagno una barca di soldi, so fare il mio lavoro, non mi nascondo, devo rispondere al mio editore di certi risultati, se no vengo mandato via. Questo vuol dire, Cracolici, che sostanzialmente succede anche nel sistema democratico. Forse l'unica vera differenza è che i giornalisti hanno meno difficoltà, come dire, a occultare le spese, poi si tratta naturalmente di regime privato e non pubblico. Ma guardi, in tutta questa vicenda io penso che le cose veramente importanti sono due. Lei ricorderà che circa un anno fa, perché ne parlammo anche nella sua trasmissione, quando subito prima che venisse fuori questo scandalo io scrissi un articolo che si intitolava La banda dei valori, nel quale dicevamo semplicemente che l'IDV si era trasformata in un'associazione di malaffare e che io li sfidavo a querelarmi, non è mai arrivata la querela naturalmente, queste vicende ci hanno dato ragione, ma ci hanno dato ragione perché era facile, come dire, prevederle, perché negli ultimi 20 anni, che ne pensa Cracolici, la politica è diventata per tantissime persone banalmente uno strumento di promozione sociale, è quello che era nell'Ottocento in Sud America l'esercito, sì, vi ricorderete, diciamo, la funzione di ascesa sociale, sì. È questo. E contemporaneamente l'assenza di controllo e l'idea dello strapotere fanno sì che chiunque si riteneva in grado l'idea di acquisire un ruolo in società. C'è secondo lei, Cracolici, questo? Se ha perso la funzione originaria di essere al servizio dei cittadini e diventare, poi parliamo delle spese, Cracolici. Posso intervenire? Sì, certo, come no? Voglio stupire il direttore, io la penso assolutamente come lui. Quindi penso anch'io che la politica negli ultimi 20 anni, forse 20 anni, il vero problema è che 20 anni fa è crollata la Prima Repubblica per ragioni che somigliano molto a quelle di ora. Quindi anche 20 anni fa c'erano dei problemi e che talmente gravi che hanno sfasciato il sistema politico di allora. Quindi forse c'è un problema patologico sulla modalità di erogazione delle risorse, sulla gestione delle risorse, anche sullo status di una funzione. E poi però, con tutta onestà, va ricordato che poi ci sono i singoli, perché ecco, una delle cose che personalmente mi fa soffrire e mi fa imbufalire è l'idea che tutti siamo la stessa cosa. No, perché questo è inaccettabile, perché poi c'è la storia di ognuno di noi, la storia che non è soltanto una cosa da mettere su un soprammobile da ricordare, è una storia fatta di quotidianità, di comportamenti, di rigore, di sobrietà. Poi fra un po', quando parleremo delle spese, io proverò a dire la mia. È chiaro, ma infatti lo facciamo, guardi, nel senso di dimostrare certo. Che cosa vuol dire per me sobrietà. Lo facciamo tra un attimo, dopo 3 minuti di pubblicità, caro Cracolici, anche Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, anche perché ci sono le polemiche legate soprattutto, devo dire, a una persona oggi sui giornali, e cioè Davide Faraone, che da consigliere regionale del PD è diventato adesso anche nella segreteria di Matteo Renzi, quindi ci sono le polemiche su questo. Lei era il capogruppo, Cracolici, di quel gruppo politico. Permettetevi la battuta, ma la giro perché un ascoltatore me l'ha mandata così. Non è male come battuta, e prendetela come tale, soprattutto il diretto interessato. La collezione di Diabolik non può essere considerata un rimborsabile come corso di aggiornamento? 24 mattino. Allora, le 8:36 minuti, le spese delle regioni, siamo con Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, e Antonello Cracolici, che presiede la Commissione Affari Istituzionali all'Assemblea Regionale Siciliana ed era capogruppo del PD. Cracolici, quanto le contestano i magistrati come spese? Ah, devo dirle, ho perso un po' i conti, perché mi contestano dall'acqua minerale che compravo per l'attività ordinaria del gruppo, agli SMS, alle cialde per la macchinetta del caffè, ai necrologi. Immagino anche le corone dei fiori che mandiamo ogni anno davanti alla lapide di Pio La Torre e Mattarella, insomma una serie di contestazioni. Poi mi contestano una cosa che ancora non ho compreso bene cosa sarebbe, delle cosiddette anticipazioni che avrei autorizzato nei confronti dei deputati e anche nei miei confronti rispetto ai soldi ho dovuti. Capito, ma lei cita alcune cose che sono, vabbè, è chiaro che uno non si deve pagare il caffè sul luogo di lavoro, oppure non so, ci sono quegli accordi con i bar magari aziendali, molti si pagano il caffè, però ci sono, lo sta dicendo come dire che le contestano cose che uno utilizza normalmente. A leggere i giornali ci sono spese invece magari non del suo partito, ma anche altre clamorose. Ecco, parliamo però, io posso rispondere di quello di cui sono accusato io, essendo il presidente del gruppo del PD. Certo, adesso anche qui ho letto la storia Diabolik. Di Diabolik, in realtà metto un pare grande quanto una casa, in realtà pare che Diabolik fosse un allegato al Panorama. A Panorama, ed era un abbonamento a Panorama. Ho capito, ma uno non lo compra, gruppo. 179 euro non lo compra, cioè nel senso dice... Che vuol dire non lo compra? Scusi, questo è però un po' intollerabile. Io vorrei sapere, lei la mattina fa la sua attività, credo che faccia anche la rassegna stampa. Sì, certo. Glieli compra i giornali? Ma no, ma è chiaro, ma quando costa 179 euro? Ma certo, la radio, ma è chiaro, ci mancherebbe. E allora al gruppo glieli pagherà le spese del gruppo, il giornale per la rassegna stampa ogni mattina nel gruppo. Cioè non creiamo banalità, perché se diventa, veda, quindi che ne so, io ho letto altri, se parliamo altri... di Diabolik, il rischio è che non parliamo dei ladri veri. chiaro? Chiaro. No, no, il no, vero dramma è che fa colore Diabolik e non ci si occupa di chi ruba. Però scusi, Cracoli, ci sono 10 milioni di euro totali contestati a tutti i politici, non saranno tutte spesucce, cialde del caffè, eccetera, oppure fossero... guardi, intanto io le dico quello che le posso dire, pure che cosa mi contestano. Mi contestano di pagare le spese del telefonino per l'addetto stampa del mio gruppo. Sì. Mi contestano gli stipendi che vengono erogati ai dipendenti del gruppo che sono in applicazione del contratto di lavoro dell'Assemblea regionale siciliana, che non ho fatto io, ma che ho ereditato. Mi contestano una serie di spese, considerando le spese non istituzionali, ma per attività tipicamente politiche. Le faccio un esempio che è stamattina sui giornali siciliani. Io sono stato protagonista nella scorsa legislatura di una cosiddetta alleanza con Lombardo nel fare un governo tecnico che mise fuori il centrodestra dalla regione. Bene, e quando si fece il governo Lombardo si organizzò un evento con tutti gli assessori, i direttori della regione, tutti i deputati della nuova maggioranza, e si fece in una villa a Palermo. Quell'evento fu pagato dal gruppo del PD. Ma perché? Sono queste le spese che la gente... Sarà tutto legittimo, ma la gente dice... Io voglio sapere se una cosa è reato o non è reato, non se la gente, perché qui stiamo parlando di fatti penali, non stiamo parlando della gente. Va bene, allora le chiedo questo, Davide Faraone, secondo lei beh, mette la mano sul fuoco sulle spese di Faraone, che dice ho speso 3.300 euro, posso essere tranquillo, sa che adesso è una polemica? Io penso assolutamente di sì, perché guardi, è chiaro che lì c'è un problema sull'interpretazione se alcune spese sono compatibili con la finalità della istituzionale del gruppo o meno, ma io non ci credo assolutamente che Faraone si sia messo in tasca i 3.300 euro. Ma no, 3.300 euro no, la contestazione, ma nessuno se l'è messo in tasca, anche gli altri, sono le spese, sono contestate se sono spese, per esempio c'è chi si è fatto rimborsare, leggevo sui giornali oggi, l'auto, la benzina per sé, per la moglie, il leasing, non a Faraone, Franco Mineo di Grande Sud, la moglie, la benzina e lui, la moglie, leggo da Repubblica, oppure Rudy Maira, finanziato il leasing, dottore, per la sua fiammante Milan, Audi A6. Lei mi ha chiamato per rispondere del PD, è chiaro. Per discutere del costo. Entrambe le cose. Stiamo parlando di una vicenda che riguarda il PD, il mio gruppo, il mio partito e i miei deputati. Io posso dirle, rispetto a... conosco Faraone, non ho le stesse opinioni politiche all'interno del PD e questo, e poi però devo dire che non penso assolutamente che possa esserci illecito nelle attività di Faraone. Va bene. E poi voglio dire un'ultima cosa, proprio in funzione della gestione sobria o meno del gruppo. Io ho lasciato il mio gruppo parlamentare a dicembre del 2012 e ho consegnato al gruppo che è arrivato dopo di me e al capogruppo che è arrivato dopo di me, non sulla base di una mia volontà, ma sulla base di una parere dell'Avvocatura dello Stato, l'avanzo che ho lasciato al gruppo che gestivo io. Ho lasciato 800.000 euro di avanzo. Ora, voglio dire, se avessimo gestito con le spese basse, con un'idea di non avrebbe avuto l'avanzo, li avremmo spesi prima che finisse la legislatura. Invece io ho cercato sempre di spendere i soldi pubblici come se fossero i miei. Vabbè, comunque guardi, la questione di Diabolik, quel giorno, io mi ricordo un giorno, guardi, visto che lei citò la radio, un giorno, tanti anni fa, il Manifesto fece un'iniziativa per salvare il Manifesto. Quel giorno il Manifesto costava 50 euro per sostenere, sa che fece Radio 24? Disse dalla rassegna stampa, no scusate, 50 euro è troppo, questo giorno viene tolto dalla rassegna stampa. Nulla contro il Manifesto, ma è una questione di bilanci, capisce? E quindi quel giorno Panorama che costava 179 euro si diceva, sapete che c'è, questa settimana non lo compriamo, adesso non voglio difendere Diabolik, difendo Diabolik, è un gran fumetto, io sono cresciuto con Diabolik, stia attento che poi fanno le battute gli ascoltatori, sono cresciuto con Diabolik per un politico, non è. Lei si ispirava a Ginko. Non è stato acquistato in una sola. No, ma è chiaro, era la collezione. Una collana che è durata un anno. Vabbè, mi faccia sentire. Allora, ma è chiaro, Umberto La Rocca, insomma, adesso al di là degli scherzi o delle battute, la vicenda è seria, la vicenda è quanto seria, o la vicenda poi rischia di appunto essere derubricata a spese, sperucce e cose che fanno colore come i campanacci per i bovini e poi finisce così un po' all'italiana? La vicenda è nell'entità complessiva seria, nelle spese individuali ha ragione il capogruppo del PD, molte spese sono contestate secondo me in maniera sbagliata ed eccessiva dai magistrati. Ritorna ad essere seria proprio per una cosa che ha detto il capogruppo del PD e che io non condivido affatto, e cioè lui dice: ah, ma io voglio che mi si contestino reati, non conta il resto. È come se conta per la politica in questo momento, conta talmente tanto che il Movimento 5 Stelle alle ultime politiche ha preso quasi il 30% e ha impedito di fatto la vittoria del PD, e il PD non è riuscito a governare. Quindi altro che, mi pare, se è seria. E poi fare per un politico, ignorare la categoria dell'opportunità politica e quindi del fatto che in questo momento la politica ha una credibilità talmente bassa che deve porsi il problema di un'ulteriore immagine di polizia da dare, al di là dei reati. Questo è il punto, e questo è il punto che gran parte della classe politica della sinistra non riesce a capire. Non riesce ancora a capire. Facendo un esempio, sì. Facendo un esempio, ma al di là del fatto che il presidente della, parlo di cose liguri perché le conosco meglio, ma al di là del fatto che il presidente della regione Liguria è una persona sulla Claudio Burlando, sull'onestà del quale io metto la mano sul fuoco, ma sarà un problema politico che lui si è scelto due vice di Italia dei Valori che entrambi si sono dimessi per questioni non solo direttore. Io ieri ho letto in rassegna stampa tutta l'intercettazione della telefonata che Burlando fa Scialfa, e lì si capisce che gli dice: ma insomma Scialfa, ma che è ste spese, i libri, ma com'è possibile? E Scialfa si difende in maniera un po' così, fa: ma io me le compro le cose da solo, i vini li compro da solo quando devo fare i regali, i libri li compro da solo. Cioè l'idea che, per carità, non è il giudizio politico, forse lo aveva già emesso Burlando nei confronti del suo vice. Senz'altro sì, poi è persona troppo intelligente per non sapere come stavano andando le cose. Registro soltanto che l'Italia dei Valori e la formazione poi che gli è succeduta per sporazione, diciamo così, sono continuati ad essere alleati del PD, che l'UDC continua ad essere alleata del PD nonostante il suo leader locale Monteleone sia stato preso con le mani nella marmellata, perché il capogruppo del PD può dire quel che vuole, ma lì si tratta, quando lui parla di anticipi, quello che contestano i magistrati è un meccanismo per cui i rimborsi ai singoli rappresentanti di regione non vengono dati ex post all'emissione dello scontrino, ma diventano un secondo stipendio, o perlomeno, non so in Sicilia, beh, mi piace parlare di cose che conosco, ma in Liguria per il gruppo, cioè, vengono addirittura anticipati, ma questo è abbastanza incredibile. Allora, Vincenzo da Palermo, buongiorno Vincenzo. Sì, salve, io chiamo da Palermo, quindi sono siciliano come Cracolici, e sentire francamente queste argomentazioni da palermitano con quello che subiamo e con la crisi che abbiamo, il sangue veramente diventa acqua, perché io me ne assumo le responsabilità. Mi chiamo Chiappara Vincenzo, ho 60 anni, faccio l'agente di commercio, inseguiamo gli F24, e sentire persone come Cracolici, nel caso specifico è lui che parla, e sentire delle persone indegne, sono indegne di rappresentare un partito che fu di Berlinguer e di Pio La Torre, sono persone indegne, perché hanno molto, me ne assumo le responsabilità, abito in via Erice 55 a Palermo, ma non dica l'indirizzo, cioè, l'ascoltano tutta Italia, ma chi se ne frega. La regione siciliana va pulita come autonomia, questi di qua, noi siamo sotto dittatura, perché con le prebende che hanno si garantiscono il voto, garantiscono il posto a 30.000 forestali, a 20.000 precari, le loro prebende, e quindi hanno il voto assicurato. Questa è una categoria di gente indegna. L'autonomia della regione siciliana va abolita. Va bene, in 50 anni ci è servito solamente a subire la dittatura. Qua c'è gente che la mattina si sveglia e non ha un euro per comprare il pane, e gente che prende 20.000 euro al mese mi dice che per motivi istituzionali il caffè gli deve essere pagato. Ma che razza di gente è? Questa è un'offesa all'intelligenza delle persone normali. Questi, se non vengono presi a schiaffi come i bambini, non capiranno mai niente. E mi stupisco che i palermitani, all'osso come sono ridotti, non entrano dentro il palazzo e li schiaffeggiano, come dicono i pediatri, che uno schiaffo ai bambini ogni tanto non fa male. Vincenzo, vanno schiaffeggiati. Vincenzo, perché quando un Cacolici dice io prendo una giunta di stipendio di come capogruppo di 1.500 euro lordi come i deputati nazionali, ma che, ma però lui Vincenzo mi scusi, Vincenzo, mi sente, mi cerchi di interloquire, mi sente Vincenzo, il consigliere regionale costa 240.000 euro. Ma un direttore di un'azienda che si prende un caffè personale se lo fa pagare dall'azienda. Vincenzo, ma mi perdoni, ma ho capito. Ma va bene, Vincenzo, io ho accolto tutto il suo sfogo. Ecco, l'onorevole Cracolici. No, ma mi scusi, mi faccia dire, ma io la faccio. Mamma mia, lei. Le responsabilità. Ma va bene, ma l'ha già detto. L'ha già detto, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno, ecco, che dia l'indirizzo. Lei ha fatto il suo sfogo. L'onorevole Cracolici, che l'ascolta, vuole ascoltare la replica dei Cracolici, che lei definisce indegno come altri, perché si fa così in democrazia. Poi lei ha la sua opinione, Cracolici ha sentito lo sfogo di Vincenzo da Palermo. Lei lo capisce un pochino oppure no, sembra arroccato lì nel suo fortino della politica, Cracolici? Ma guardi, il mio fortino, non sono in un fortino della politica, io faccio una vita, faccio una professione che non è la politica, è un'attività che svolgo temporaneamente. Gli elettori mi hanno eletto, fino a quando durerà la legislatura farò il parlamentare, finita la legislatura farò il mio lavoro, come il signore che chiama, che definisce indegni senza conoscere la storia e gli uomini. Io considero indegno un modo di rappresentare queste storie, perché se parliamo del caffè e se parliamo dell'acqua e se parliamo di tutto ciò in un momento in cui c'è una rabbia sociale evidente, forte, verso la politica, verso lo Stato, verso le istituzioni, perché la gente scarica sulla politica e sui politici, a volte con ragione, visti i comportamenti. Ma perché sa sentir dire il caffè da pagare, l'acqua, cioè tutti, guardi, i dipendenti se li pagano tutti. Ma scusi, ma io posso essere contento, cioè posso rispondere all'autorità giudiziaria per aver comprato 2 euro di acqua al giorno? Di questo stiamo parlando. Allora, se vogliamo fare, diciamo, propaganda demagogica, lo possiamo pure fare. Tutto costa troppo in Italia, tutto. Ma se io devo rispondere davanti a un tribunale per aver autorizzato e non bevuto, chiaro? Ma nella qualità di capogruppo, aver autorizzato in un gruppo dove ci lavorano 27 persone, ci sono 29 deputati, ho autorizzato l'acquisto di 2 euro di acqua al giorno, perché 2.200 euro in 5 anni, o aver autorizzato l'acquisto di 4 euro di cialde per il caffè per i dipendenti, per evitare che vanno girando nel palazzo, perché poi le cose bisogna saperle, conoscerle. Se lei dice questo è inaccettabile. Vabbè, ma insomma, devo rispondere di questo davanti a un tribunale. Sentiamo domenica da Ravenna. Io ringrazio anche Vincenzo da Palermo, come vede ho accolto e l'ha lasciato, insomma, che il suo sfogo si svolgesse tutto. Domenica volerei buongiorno. Allora, anch'io sono molto Pronto? Sì, la sentiamo. Sono Domenica. Molto arrabbiata, ma stiamo parlando di che cosa? Io sono un'insegnante, una mamma. Come facciamo noi a parlare ai nostri figli di diritti e di doveri? Io non so sentire, ascoltare, leggere nei giornali queste notizie. Non è una questione di indignazione, non c'è un termine che possa racchiudere tutto. Cioè lei dice mette addirittura in crisi il suo ruolo educativo nei figli, lei dice. Certo, certo. Non sa come spiegare queste cose. E Domenica, un pochino la capisco e condivido. Mi devo fermare qui, ma la vicenda continuerà e noi ci torneremo. E ringrazio per il momento Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, che oggi anche sul giornale insomma va avanti con sviluppi sulla regione Liguria. Ringrazio Antonello Cracolici, del ex capogruppo del PD, attuale presidente della Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana. Ci fermiamo, grazie a tutti. A domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.